Ma da quello che mi sembra di capire ci sono problemi burocratici, insomma, di leggi, di difficoltà e anche forse la percezione che questo non sia un paese che vuole investire in scienza, innovazione e tecnologia. Cioè la burocrazia è un grande freno per la ricerca. La burocrazia serve, ma non deve essere esagerata. La burocrazia serve a organizzare. Serve, no? Quella intelligente, esatto. Insomma. Quella in funzione di, non quella che diventa capo. Assolutamente. Ecco, senatrice... Si è emozionata quando Napolitano l'ha nominata senatrice a vita? Eh? Ho perso la parola, credo. Addirittura, sì, sì. Bellissima. E cosa le ha detto Napolitano? Ma mi ha detto, mi ricordo questa frase, no, in cui mi ha parlato per circa mezz'ora della Costituzione, dei padri fondatori, e io non sapevo dove stesse andando, perché ero piombata lì dal nulla. Ah, l'aveva chiamata sì, così? Sì, sì, sì, perché voleva vedermi. E poi mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: io ho intenzione di nominare i nuovi senatori a vita e ho pensato al suo nome. Cosa ne pensa? Ecco, è stata così. E cosa ne pensa lei? E io sono svenuta e mi ricordo questa frase, insomma l'ho detta più volte, mi ha preso per il braccio e mi ha detto: professoressa, le faccio portare un cordiale, perché non riuscivo assolutamente a parlare. E poi la mia prima reazione è stata: sarebbe un grande onore, ma... Io ho il laboratorio, ho le persone, ho una sfida con una malattia. E lui mi ha detto: l'ultima cosa che voglio è togliere una risorsa alla ricerca. Però avete trovato faccia l'accordo. Ecco. Va bene, senta, senatrice Cattaneo, le faccio un'ultima domanda. Lei crede in Dio? Io credo che ci sarà qualcuno ad aspettarmi alla fine della mia vita e alla quale rendere spero conto. Di essere in grado di render conto. Grazie. Grazie. Mix 24 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, che titolo faresti per la senatrice Cattaneo? Esplorazioni naturali e soprannaturali. E tu, Pietrangelo? Io nessun titolo, però ti leggo il tweet di Mariella Giammarini, che insegna a San Benedetto del Tronto. Una professoressa dice: questa intervista andrebbe ascoltata in diretta in tutte le scuole, soprattutto dai docenti. Accidenti, oggi abbiamo una visita, il professor Simonelli non ha resistito, è venuto a trovarci. Lei, professore? Il titolo? Una senatrice cordiale. Cordiale, carino, perché gli era più cordiale, capito? Battuta di Simonelli. Battuta di Simonelli, prendere nota. Sono un titolista. Accidenti. Voi non ci credete. La musica di Pietrangelo. Che va diritto al cuore, simpatica sei tu. Sempre in metropolitana, le avventure di Pietrangelo Buttafuoco. Sempre in metropolitana, avevano tutti l'aria così da Castellinaria, ecco. Ed erano tutti nel batticuore e si chiama gioventù. Bruciata. Che bruciata. Mario, niente notti di passioni, ma cieli sereni, finalmente. Nel meraviglioso duetto di Walter Chiari ed Elia Scala in Buonanotte Bettina. E mi riporti su tra i miei castelli in aria. Una lezione per il professor Simonelli. Mario, che cosa bollo in pentola oggi? Eccolo qua, l'inno della France. Voglio occuparmi delle barchette di Hollande. Cioè? Sono due portaelicotteri, classe Mistral, che Parigi sta costruendo, indovinate per chi? Per la Russia. E il valore dell'ordine è di circa 1,2 miliardi di euro. Al congresso americano dice: ma l'Europa non doveva mettere le sanzioni insieme a noi? E interrompete la fornitura delle navi da guerra alla Russia. 1,2 miliardi è una bella sanzione, no? E poi, insomma, siccome c'è la guerra fredda, eccetera, di nuovo, allora non gli diamo anche le armi, tra l'altro, classe NATO e non solo. Hollande ha detto no. E altrimenti si perdono soldi. E poi bisogna pagare anche le penali. Interessante, no? Butta fuoco. Insomma, difficile trovare queste queste sanzioni. È difficile. È molto interessante. Però io vorrei ricordare a voi, agli ascoltatori, la lezione di Tchaikovsky, che fece iniziare sì roboante, anzi reboante, per non parlare un linguaggio da mattinale, la Marsigliese, sovrastata infine dall'inno imperiale russo. Ce l'hai, Mario? No, c'ho questo. T'ho fregato. No, vabbè, sempre Russia, sì, quelli tengono tutto. Siete, ma questo è il coro dell'Armata Rossa, ragazzi, è meraviglioso. Ah, beh, siamo vicini. Sì. Continuiamo questa cosa dell'Ucraina, perché è molto divertente. Molto interessante. Ma è successa una cosa incredibile. Il figlio del vicepresidente degli Stati Uniti, che si chiama Joe Biden, il figlio si chiama Hunter Biden, che sarebbe Hunter, vuol dire pure cacciatore di poltrone, beh, è diventato consigliere di una società ucraina che lavora nel gas. Inestricabile proprio, eh? Ora, se lo facevano apposta a lasciarci le impronte digitali sulla rivoluzione di Kiev, non ci riuscivano. Di tutta questa roba i telegiornali italiani non hanno ovviamente parlato, sono impegnati in altissimi argomenti, ovviamente noi d'altronde importiamo solo una percentuale irrisoria di gas dalla Russia che passa per l'Ucraina, non ci riguarda. Sicuramente la Mogherini farà sentire la sua voce. Sì, su questo, però insomma, il figlio, il vicepresidente degli Stati Uniti è nel CDA di una società ucraina del settore del gas. Se voi non pensate che ci sia qualcosa di strano, questa è veramente una notizia. In attesa da Mogherini, però noi abbiamo la nostra quota rosa. L'amore non è bello se non è litigarello. I nostri politici hanno trovato un nuovo argomento per scannarsi. Siete contenti? L'Expo. C'è chi dice che è una cagata, ma cito testualmente, quindi dovevo dirla la parolaccia, chi invece con fermezza lo sostiene. Sono partite anche le scommesse sulla fine dei lavori e ho letto un tweet a questo proposito molto divertente. Pensare che i lavori dell'Expo finiranno è come credere che la nuvola di Fuxas sarà terminata in 6 mesi. Ma questa Tardelli, piano piano. È tremendo. Sarebbe terribile. Andiamo avanti con le bolle. Allora, senti qua. I pronipoti parlino cinese? Il dollaro sta per sparire. C'è stato l'impero romano, poi l'Europa, poi questo. Noi. Questa cosa con auto, estereo e hula hoop. E abbiamo mandato tutto nella merda. Olè. Allora, questo era il film sul fallimento di Lehman Brothers. Purtroppo noi siamo filologicamente corretti, quindi bisogna citare quello che è citato. Bene, l'ultima che passo. Allora, chi è Tim Geithner? L'ex ministro del tesoro americano, of course. Cosa ha fatto? Beh, qua dobbiamo chiarire un po' di cose. Allora, quando nel 2008-2007 già cominciarono, ma diciamo 2008, le banche americane andarono gambe all'aria, le ha salvate e i liberal l'hanno odiato. Poi le ha vincolate a fare alcune cose con delle leggi più restrittive e i repubblicani l'hanno odiato. Poi non è riuscito a fermare i super bonus dei banchieri a Wall Street e i liberal l'hanno odiato. A questo punto, no, che cosa era e che cosa è Geithner? È l'uomo che ha gestito la più grande economia del mondo, che a un certo punto aveva i bancomat che non sputavano più soldi. È l'uomo che ha gestito l'economia che perdeva 750.000 posti di lavoro al mese e mandava in fumo in un attimo 15 trilioni di dollari di ricchezza immobiliare. Secondo voi un uomo così poteva pensare a fare un complotto sul governo di Roma? Se il complotto c'è, ed è chiaro che c'è, che c'erano le pressioni, non era a Washington, anzi, a Bruxelles. Mi sembra che Obama si sia sfilato e abbia dato ragione a Berlusconi. Gli americani si sono comportati piuttosto bene, correttamente, sorpresa. In questo caso. Sorpresa. Un'altra sorpresa è quella degli SMS. Qualcuno mi chiede perché ne leggiamo pochi. Ne leggiamo pochi perché noi rispondiamo solo a chi si firma. Chi non si firma, o per farci complimenti o per insultarci, noi non rispondiamo. Salamino. Hey, Hegel, Hegel, manco Hegel ci può con la politica italiana. Hegel. Allora, tesi, antitesi, sintesi, la rimonta, la spallata e il culetto. Allora, Berlusconi cerca di guadagnare spazio e la sua rimonta elettorale e dalla sua parte già cani, gatti, creature senzienti varie e adesso anche il popolo delle dentiere. Renzi invece, nelle parole di Beppe Grillo, ha cercato di pararsi il culetto dicendo che il risultato delle europee non sarà significativo perché sta per arrivare la spallata di Beppe Grillo. Si presenterà non con una marcia su Roma, bensì con una gita portando 1 milione di persone al Quirinale, davanti al Quirinale, e lì finalmente potrà, dice lui, portare a Giorgio Napolitano, in quel posto, che non si sa ben quale posto sia e dove è posto questo posto, e Napolitano darà a lui questa risposta. Ma tu prima nella versione strepitosa di Giorgio Gaber. È grandissimo. Io mi devo trattenere dalle risate perché devo annunciare una cosa meno divertente. Oggi con Marina Milone, nella seconda ora di Mix 24 per la storia, continuiamo il nostro impegno per la memoria delle vittime del terrorismo. Ho poggiato la mano sulla nuca di mio padre, ho sentito caldo, ho sentito umido sulla mano e in quel momento ho sentito il gelo della morte. A me hanno veramente portato via la possibilità di sapere che cosa è un padre, di avere una vera famiglia, e mi hanno portato via un pezzo di me, come amputarmi un braccio o una gamba. Erano le voci di Pietro Mazzola e di Silvia Giralucci, figli di due delle vittime innocenti di quella stagione degli anni di piombo, nella seconda ora a cura di Marina Milone. Mario, le bolle come andiamo? Ah no, canzoniere, facciamo canzoniere al volo prima della pubblicità. Nel 1517 il padre Bartolomé de las Casas ebbe molta compassione degli indios che si estenuavano nei laboriosi inferni delle miniere d'oro e propose all'imperatore Carlo V l'importazione di negri che si estenuassero nei laboriosi inferni delle miniere d'oro. 800 24 00 24, il numero verde per chi vuole rispondere, 349 238 6666. Ancora una bolla, Mario? Vai. Io e mio cugino ce l'andiamo. Sì, io devo andare a pulire i calamari. Tu non temori. La passatella non si rifiuta. Beh, pur rispettando le tradizioni della capitale, vero? Come uomo di penna non posso accettare la passatella. Vengo e mi spiego. No, tu venghi e te siedi. A Mervino mi fa l'acido, quando è poco. Allora, questa è la passatella, che per chi non lo sa è una tradizione romana, ci si siede su con una damigiana di vino, si comincia a bere e uno viene escluso dal bere perché è quello, diciamo, il più disgraziato di tutti che viene preso in giro. È in Rugantino, tra l'altro. Allora, in vino veritas è anche un po' potestas, perché chi sono i più grandi consumatori di vino del mondo? Uno direbbe la Francia. No. Fino a ieri sono diventati gli americani, spodestati con 2,9 miliardi di litri di vino all'anno. E questa è una cosa importante, perché la Francia perde il podio, e c'è un altro fenomeno ulteriore: sta diminuendo il consumo appunto nei paesi dove tradizionalmente si beve. La Francia, l'Italia, la Spagna, tra appunto i paesi latini, va bene in Germania. La Cina, che aveva iniziato a consumare molto vino, è anch'essa in calo. Scende. Qualità nel più consumo. Qualità, prima, qualità. Prima della pubblicità voglio leggere questo messaggio di Michele Dall'Ecco, che dice: da ex studente laureato triennale di ingegneria sono perfettamente in accordo con Bloomberg. Uscito dall'università mi sono accorto di aver studiato una facoltà che praticamente crea disoccupati e iperprecari. Mix 24. Sara, aspettavamo ospiti, ma non arrivano gli ospiti. Eccoli, a grande richiesta, sempre a spese loro perché sono generosi, Dudu e Aiace Telamonio, i cani di... Ditelo voi. Di no. Silvio Berlusconi, Dudu Massimo e Aiace. D'Alema, Aiace. Beh, allora siete in linea, buongiorno, prima Dudu che è piccolino e ha già la pappa pronta. Buongiorno, ciao, ciao Dudu. Mario dice... Ma io guarda, vorrei stare sul complottone. Ora, Silvio fece una battuta così definendo Obama bronzato, non fu bello, insomma, è anche un po' ingeneroso. E invece Obama si è comportato bene da quello che abbiamo visto. Ma Dudu può raccontarci quali sono le reazioni di Papi a questa cosa, il retroscena? Io non racconto, non c'è nessun retroscena, Papi non ha detto nulla, però una mia idea. Obama si era confuso, pensava che Papi fosse Gheddafi e Gheddafi fosse Papi, perché ha detto non voglio il suo sangue sulle nostre mani. Non aveva idea assolutamente e si è confuso. Si è salvato per la confusione. Sempre americano è. Grazie Dudu. Adesso Aiace per te, Giovanni. Sempre restando un po' in tema, mi sembra che comunque queste rivelazioni rendano il Quirinale sempre più appetibile, diciamo così, eh? Dice, dice non solo lei fa domande bellissime, ma ha delle intuizioni giuste. Prego. Ah sì, la crisi del governo del Cavaliere nel 2011 ha un solo responsabile, non l'Europa, non gli americani, ma Giorgio Napolitano. Oh. Sì, dice così. Aiace così spontato. No, Dudu, non ti... Dudu! No, è che si sono messi d'accordo tutte e due, sono... Comunque, dice Aiace che il vero presidente della Repubblica sta per arrivare. Chi è? Lo conosco bene, non ha detto no, no, sì, non si compromette, ma chissà se lo sa il professor Simonelli. Buongiorno. Che è nostro ospite gradito, che ride qui con noi. Allora, professore, dov'era il canone ieri sera? Oramai la domanda se la fanno in tutta Italia, anche nel mondo arabo. Facciamo un po' di atmosfera. T'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, ridicola. Pecola. Abbiamo perso pure Simonelli. È andata. Allora, era piccola quella fabbrica che il commendator Cavalier Borghi ingrandì fino a farla diventare la Ignis. Grande Borghi. Allora, il canone era su Rai 1 per due sere, perché questa fiction, Mister Ignis, dedicata alla biografia di Borghi, ha tutti i difetti che i critici attribuiscono alla fiction italiana, sì, di Rai 1. È didascalica, un po' agiografica, un po' prevedibile, un po' telefonata, però ci vuole. Ah, sì. Bisogna raccontare queste storie. Poi, grande miracolo italiano. A volte si raccontano meglio, a volte si raccontano meno bene. Questa, tutto sommato, non è raccontata male. Però bisogna raccontare, vi dico questa cosa: quando il centrodestra ebbe per la prima volta la maggioranza e occupò, tra virgolette, la RAI, arrivarono le femmine. C'erano già venute prima, non è questo il problema. Qualcuno hanno occupato la RAI, non me ne ero mai accorto. Tra virgolette, con la K, disse: bisogna fare delle fiction che riscattino l'immagine dell'Italia, delle fiction che vadano contro il politicamente corretto. Grande e fecero delle fiction liberali, e fecero delle fiction stupidissime, polemiche. Queste sono le fiction liberali. Storie, racconti di grandi imprenditori. Allora, qui, insomma... E la seconda? È il centro-sinistra. Seconda serata di ieri, ha detto ce ne sono due, una Borghi... No, basta, Borghi, basta. Borghi, no. Le due puntate di Borghi. È quello che c'è stasera che non bisogna perdere. Che cosa c'è stasera? Uno dei film più belli, Cosa piove dal cielo, un film argentino su Rai 4 e su Rai 5, una puntata di icone dedicata ad Arnoldo Foà, con un piccolo mio conflitto di interesse, ma non perdetevela lo stesso. Però Rai 5 è la nostra rete. Posso dire una cosa? Oggi su Twitter Gianluca D'Antoni dice: il servizio pubblico è a Mix 24, grande intervista al senatrice Cattaneo. E poi Alessandro Brunetti, li ringraziamo, dice: non si può credere, Giovanni, ti dice. dice: non si può credere che la radio più rivoluzionaria come contenuti siete voi, vossia. Ah, allora, qui chi si allora, loda si imbroda, diceva mia nonna. E vabbè, però scusa, vai con l'internazionale. No, faccio radio banale allora. Domani sta per arrivare il weekend. Che bello! E poi facciamo una telefonata con la dedica. Oggi con la puntata di Silvia Bacci, raccontata da Marina Milone, ricostruiamo lo scenario degli anni violenti, gli anni di piombo in Veneto, una regione che diventa teatro di attentati, sequestri e di omicidi. Tra poco, nella seconda ora della radio, l'ultima bolla, Mario? Allora, questo è Rock and Roll Robot, perché si è aperta una conferenza a Ginevra dell'ONU sulle armi automatiche, o meglio, i robot che diventano dei killer. E c'è qualcuno che vuol già metterli al bando. In realtà il robot killer ancora non c'è, tra un po' ci sarà. E c'è tutta una discussione su che cosa vuol dire automatico, che cosa vuol dire autonomo. Insomma, in poche parole, è solo una questione di benvenuti nella guerra del futuro. Basta. Ma...